paga la pena scommettere che c'è una traccia nascosta tra le foglie del tè. Si salva qualcosa della vita mia, l'amore, il sesso, il denaro o la fantasia. Quante persone, amiche e nemiche, così tutte insieme sembran tante formiche. Odio ed amore, salute o sofferenza, il vino, i soldi, il potere, è tutta apparenza. Scorre la sabbia, parliamo piano tra amici, della stella lontana, di sogni ed auspici, un'emozione tra un asinello ed un bue, c'è un segno inatteso, 42. L'alba gloriosa esplode tutto intorno, ogni piccola foglia mi grida buongiorno. Aria fragrante che inebria la testa, la natura, il piacere, l'amicizia, la festa. Ogni capitolo, ogni frase del libro è una voce lontana, equilibrio mi sfugge, resta un nome, un profumo che il tempo distrugge. Inseguo un varco tra un sole spento di nulla, giusto la rotta, lo spazio sussurra di un sentiero, tra le mie orme e le sue c'è un raggio splendente. Sembra vicina, la luce mi avvolge, lo sguardo tra cima su catene, onde che frangono due al confine del mondo, 42. Bere per chi non si accontenta, non puoi farne senza la siesta che tenta tre volte tanto, puro rimpianto. Sei proprio carino, fa impazzire il mondo, bruno biondo, fai l'amore con lo stupore, peccatore, paga la pena scommettere che c'è una porca risposta, anni mille perché c'è uno straccio di senso per la vita mia, la sicurezza, il pericolo, l'ipocrisia, Venere, Marte, il destino, la gelosia, l'amore, il sesso, il denaro o la fantasia.